Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sport 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là. Di cose in giorno, dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando. Legarsi all'Inter vuol dire essere pronti a vivere una vita emozionante, è come uno che fa un viaggio d'avventura, insomma, per cui deve avere sia, non è un viaggio comodo, è un viaggio che può essere scomodo, ma che ti dà tante di quelle emozioni che ti rimane in mente. Credo, spero che la famiglia rimanga in mente, soprattutto mio padre, come un momento di storia molto importante, decisivo, devo dire, per portare la squadra a livelli internazionali e essere conosciuta e amata anche nel resto del mondo. Fa la mia vita. Beh, non canta male Moratti, eh. Io questa non l'avevo mai sentita. Grazie Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, per la preparazione di questa copertina, ovviamente con Roberto Scaltritti in regia. Lucio San Siro, canta mica male. Mi piacerebbe parlare, perciò lo invito con quello scienziato della comunicazione che ha scritto un SMS: basta calcio, basta, il calcio non è una notizia. Ditemi, voglio sapere che cos'è, se non è una notizia, se non è una notizia questa. 15/10/2013, data di nascita dell'Indo Inter. Mi pare di vedere, anche se chiudo gli occhi la vedo, anzi, una folla di tifosi con lacrime agli occhi, specie i più giovani, per i quali l'Inter è sempre stata Massimo Moratti. Però adesso non voglio cadere nel retorico, nella filosofia. Pierluigi Pardo? Come va? Hai sentito il cinguettio del tweet? Sì, perché? No, così. Ma è girata così, eh? Perché vogliamo raccontare anche quei suoni tweet. Beh, insomma, è una giornata storica. Dai, te lo faccio sentire ancora? Vai, fammi sognare. Sì, ma sembra più tipo il giornale radio. Allora, Pierluigi, reduce da una puntata complessa di Tiki-Taka, interessante, sì. Bella ma complessa. Complessa, fortunata, perché insomma gli ascolti sono stati ottimi, perché comunque abbiamo fatto abbiamo anche un po' di più regionali di oggi, da Tevez a De Laurentiis a Cassano, e poi ovviamente insomma so che ne abbiamo parlato ieri anche in radio, anche fuori agli spazi sportivi, ovviamente tutto il discorso legato alla visita al quarto della nazionale con tutte le polemiche, anche oggi troviamo sui giornali. Ma va, davvero? Sì. Vorrei mica parlare anche oggi di Balotelli, ho l'impressione di no, sì. No. Ho detto ieri quello che è successo, chi ha visto la puntata sa che c'è stata una presa di posizione molto forte da parte di Don Aniello, sempre l'antica morra di Scampia, che ha detto delle cose, insomma si è assunto delle responsabilità e che c'era un pezzo di studio, nello specifico Francesca Barra e Andrea Scanzi, che ha rilanciato queste critiche a Balotelli, e un pezzo di studio, Mughini, Dalai, Facci, Satta, che invece ha difeso Balotelli. Io mi sono permesso, sono diventato molto gentiano ieri sera a un certo punto, e l'ho ribadito anche adesso, e lo ribadisco anche adesso in radio, a un certo punto, quando ho capito che c'era di fondo qualcuno che pensava che dietro al tweet di Mario ci fosse una sorta di complicità con un certo tipo di mondo criminale, perché questo è il concetto che qualcuno ha fatto passare, che da Scampia facevano passare, una pazzia. Mi sono semplicemente permesso di dire, lo ribadisco, lo ribadirò sempre, che secondo me questa cosa qui non si poteva fare. Primo perché Mario non poteva rispondere, quindi sì. Non si parla, ecco, e l'accusa era particolarmente grave. Poi, onestamente, ma questa è una questione personale, io quando faccio il conduttore, faccio sì che gli altri parlino, ovviamente. No, adesso qui posso fare l'opinionista e dire quello che penso è che non è così. Cioè, Balotelli probabilmente, abbiamo detto ieri, non avrebbe dovuto fare quel tweet. Io se ci parlerò, gli consiglio di non farli più. Poi so che Prandelli glielo impedirà a lui e agli altri sì. giocatori della nazionale. Anche perché ho già detto che il tweet in Brasile si può fare, sembra il come interna della nazionale ha deciso che poi, non si può ma fare. Poi detto questo voglio dire, io l'ho vista come un'ingenuità, come sì. una cosa che passa, che deve finire qui, ma il problema è che non finisce qui e alla fine poi se non ne parli non fai giornalista, se ne parli troppo io ne sarei anche un po' rotto, no, capito? Sì, no, noi facciamo comunque quello che ci pare, anche perché sinceramente facendo i giornalisti mi sembra che sia, a differenza di quanto dice lo scienziato di qui sopra, una notizia. 80024 0024 non un giornale, ma tutti i giornali di oggi hanno due pagine di questo, quindi sì. Ma poi tutti i passi. Tu vai, io prima sono andato al bar a bere il caffè e mi hanno detto: ma scusami, mi ripeti un po' com'è sta storia di Balotelli? Cioè, prima domanda, imbattuto, non è che mi hanno chiesto. Sai cos'è che mi dispiace a proposito della puntata di ieri? No. In una felicità totale derivata dagli ascolti, secondo me, dal fatto che ho fatto un'ottima puntata, che poi per parlare di queste cose magari si perde l'attenzione. Cioè, noi ieri avevamo un'intervista di 6 minuti a Tevez che ci ha raccontato la sua infanzia, perché non si è tolto la cicatrice. Avevamo un'intervista a Cassano, che ovviamente lo conosciamo meglio, no? Chiaro che la storia di Cassano, l'ho scritta, i libri, eccetera, è un po' meno inedita, ma è comunque una storia di strada interessante. C'erano le storie di Scampia, che sta rinascendo attraverso tutta una serie di progetti legati al calcio. E poi alla fine inevitabilmente di questo si finisce per parlare, anche se due terzi della trasmissione sono dedicati a tutte queste cose, però poi alla fine al bar si parla sempre soltanto di quella roba lì. Quindi io oggi veramente alzerei quasi bandiera bianca. Alzi bandiera bianca? Io no, sì. Sai che ti dico? 800 24 00 24. Sì. E io invece sfido. 800 24 00 24. Fammi risentire il tweet e poi il traffico. Che l'Inter parte dal presupposto che c'è un allenatore top, ha una persona meno top, però secondo me farà delle grandi cose. Io sono tipo interista, rimango interista e tipo per l'Inter, non per lui, non me ne frega niente a me di lui. Tutti convocati. 800240024, come detto, Pierluigi Pardo con noi, come sempre, Pino da Brescia pure. Buongiorno Pino. Buongiorno Carlo, se mi concede 30 secondi solo, sì, come per no. dire solo grazie, sempre grazie per 30 secondi alla famiglia Moratti per le serate indimenticabili che mi ha fatto passare. Quali? Quando hanno perso? Sempre Inter, sempre. Va bene, sì. Perché bisogna essere anche sportivi nella vita. Io l'ho detto, sì, bisogna essere sportivi, ma anche un po' tifosi, perché è giusto farlo. Io l'ho detto prima, se chiudo gli occhi vedo comunque posso immaginare un sacco di interisti coi lucciconi, come dicono a Milano, ma anche a Brescia, ma sì, ho capito, ma lo so, ma l'Inter è tante cose. Io non so se tu sarai in grado di capire che l'Inter è quella che ha vinto gli scudetti e li ha persi, quella dei motorini che volavano dal terzo anello, quella del rigore su Ronaldo, quella di Calciopoli, quella di Ibrahimovic, quella di Mancini, quella di Branca e di Oriali. Pare che lo stia capendo, perché c'è un rumor che dice che probabilmente Moratti avrà un ruolo molto importante e che questa potrebbe conservare anche il ruolo di presidente. Ovviamente dovrà essere confermato tutto questo, però sicuramente se una scelta arriverà da questo punto di vista sarà proprio perché Toir si sarà reso conto e avrà ritenuto opportuno lasciare il simbolo del popolo dell'azzurro ancora formalmente, almeno formalmente e simbolicamente, come presidente. Sì, lui ha detto ancora stamattina ha detto questione presidenza, ancora non lo so, però mi sembra una questione piuttosto importante. Alessandro, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo fare un intervento sulla tematica, cioè partendo dalla tematica Balotelli, tweet, sì. Doppio senso. Sembra veramente che viviamo in una situazione inverosimile dove si trasforma tutto ciò che ognuno dice e sembra che sia tutto finalizzato a raggiungere il classico scopo di pane e circo per il popolo, così lo facciamo divertire, diamo i bonus sulla 14ª fra 2 anni mentre prima gli facciamo pagare il 22% di IVA Il problema principale sembra che sia l'omosessualità, il femminicidio, ci scordiamo del valore della famiglia tradizionale. Sì. Così, basta, volevo solo fare un intervento di questo tipo, vedere, largo. Confrontarmi con lei per vedere come, va bene, cosa ne pensava. Facciamo così. Maurizio Crosetti, inviato di penna importante di Repubblica, ciao, nostro amico oltretutto. Buongiorno, buongiorno, non ero mai stato richiamato da un fischio dall'Odole, sono fiero di questo, spero che nessuno mi impugni. La deriva dei tempi, la deriva drammatica dei tempi, grosso, ormai siamo a twist star e quindi questo... Alla grande. Twist star sarete voi, io non ho mai visto Twitter. Sono imbattuto. Mi valuto il liso e dico a Pier e a te che io non sono simbolo di niente e nemmeno di me stesso. Ecco. Allora, visto che hai cominciato tu e visto che io non ce la faccio più a stare zitto, 800240024, e visto che siamo incapaci di vivere normalmente e siamo abituati alle estremizzazioni, conviene fare una scelta di campo una volta per tutte e poi magari spiegarla. Ebbene, io sto con Balotelli. Credo che abbia un sacco di difetti pubblici e privati, in gran parte fatti suoi, sono ragionevolmente convinto, come credo anche voi, del fatto che non sia un camorrista. Se da qui ad accettare il ruolo di simbolo di qualcosa, secondo me ne passa, punto. Poi se volete io sono qui e non alzo bandiera bianca, sono qui pronto. 800 Maurizio, 24 004. Maurizio, ecco, io penso che ci sia una differenza tra essere un segno di qualcosa ed essere un simbolo di qualcos'altro, non è solo un gioco di parole. I calciatori sono spesso un segno, nel senso che la loro presenza, ad esempio, a Quarto e altrove, dove si soffre, dove si combatte per qualcosa di giusto, è importante ogni volta che accade, perché danno appunto il segno di una presenza, un aiuto anche emotivo, morale, qualche volta anche materiale. E essere un simbolo significa qualcosa in più, significa incarnare consapevolmente certi valori, battersi per questi, esserne consapevoli in maniera piena, non solo in maniera esteriore da copertina. E io credo che questa seconda cosa a Balotelli non si possa chiedere. Sarebbe come chiedergli troppo, sarebbe come tirarlo per la giacca o per la maglietta per ogni causa. Esatto, solo perché, come dire, è un ragazzo che ha sofferto, è un ragazzo che qualche volta sbaglia, un ragazzo impetuoso, un ragazzo con la pelle nera. Non basta tutto questo per essere un simbolo, è più che sufficiente per essere un segno. Assolutamente, guarda, io ti dico che la chiave è proprio qui, e in realtà questo dibattito, se riuscissimo a condurlo in maniera alta, è interessantissimo, perché il confine tra la libertà individuale di un ragazzo di poco più di 20 anni, di non sentirsi trascinato, preso per la giacchetta, di poter fare quello che vuole, e il dovere che tutte le persone evidentemente hanno di poter testimoniare valori positivi, quando ovviamente sono persone che hanno un ruolo pubblico, è il vero tema. Io sto con Balotelli, nel senso che della cosa del camorrista che ieri sera mi ha portato a uscire per un attimo dal mio ruolo di arbitro, perché non posso accettare che si possa neanche soltanto insinuare una cosa del genere, perché non la penso e perché comunque non è così. Però al di là di questo, io credo che ci sia questo tema, cioè è il diritto di un ragazzo di 22 anni, anche se è famoso, anche se è popolare, anche se è ricco, anche se è importante, anche se può essere un esempio positivo per i giovani, di dire che lui in quell'aspetto lì non ci vuole entrare? E questa è la vera domanda. Io credo di sì. Lo credo anch'io, lo credo anche da padre di ragazzi che hanno l'età di Balotelli, credo che a quell'età l'unico vero diritto che hanno le persone, forse a qualunque età, è quella di essere loro stessi, certamente senza dimenticare che la visibilità trascina è una responsabilità maggiore. Però, ripeto, Balotelli non può essere tacciato di imbecillità o di indegnità, cioè le cose che ho sentito su Balotelli sono 10.000 volte più gravi di un eventuale tweet sbagliato. Esattamente, perché, volevo allargare un po' il discorso, magari lo allargo troppo, però se certamente ha perso un'occasione per stare zitto o per evitare di scrivere, e questo, su questo possiamo essere ragionevolmente tutti d'accordo, l'occasione per stare zitti l'hanno persa in molti. Ad esempio, a proposito dell'imbecillità di qui sopra, la senatrice PD Rosaria Capicchione, che dice: d'altra parte, dopo la visita a Scampia, cosa volete aspettarvi da questo? La sua è per metà ingenuità e per metà l'arroganza di chi vive al nord lontano e non sa. Ecco, no, su questa seconda metà, se sente Tosel, magari chiude qualche curva in Parlamento, forse non fa neppure male. No, no, ma vedi, è completamente sbagliato. Io l'unica cosa che ti posso dire, che ho capito ieri sera, tra l'altro Radio 24, credo ieri pomeriggio, effetto giorno, aveva intervistato Don Aniello, è che da parte di chi è in prima linea a Scampia, nel fare i campi, nel cercare di riportare speranza, anche una semplice presa di posizione che, ripeto, noi tutti stiamo difendendo perché ognuno deve essere libero di non dover indossare per forza una giacca o di non dover per forza abbracciare una causa. Però quello che ho capito ieri sera è che a Scampia, almeno da parte di alcuni, questo defilarsi è stato visto come una delusione. Questa è l'unica cosa. Probabilmente quella è una realtà dove tutto talmente bianco, talmente nero, dove i problemi sono talmente grandi che anche una minima defezione come quella alla quale, ribadisco, secondo me Balotelli ha pienamente diritto, perché è lui il padrone della sua vita, è lui che decide se vuole fare il testimonial dell'UNICEF, è lui che decide come fare il testimonial del WWF, sì, o di qualsiasi altra associazione. Però probabilmente a Scampia quel tipo di interazione e quel tipo di discorso evidentemente ha deluso. Questo è quello, Maurizio, che è l'idea che mi porto io dopo una serata nella quale onestamente ho vissuto cose che non mi aspettavo. Perché, Pier, sentiamo anche Maurizio su questa. Chiudiamo le curve in Parlamento o magari qualche settore dello stadio, no? Secondo me bisognerebbe chiudere l'impulsività che ci fa dire, fare, twittare le cose senza pensare troppo. È un segno di tempi, un segno anche tecnologico dei tempi. A me stesso, che ho 51 anni, quasi 52, e non sono Balotelli e non ho, per mia fortuna, avuto i dolori, le sofferenze e le difficoltà che ha avuto Balotelli nella sua infanzia, perché noi la dimentichiamo questa cosa, non per fare gli psicologi da 1000 lire, però ragazzi, ogni comportamento ha le radici quando eravamo piccoli. Io da piccolo avevo una famiglia felice, non sono stato abbandonato, non sono stato mai trattato come un bambino cattivo e probabilmente non ho la cresta, ma non sono migliore di Balotelli. Ma voglio dire che anch'io scivolo qualche volta su Twitter, perché ti porta questo strumento a dire una cosa impulsivamente, velocemente, senza renderti davvero conto di cosa stai dicendo. Succede a un professionista della comunicazione sfigurarsi se non può succedere a un ragazzo di 23 anni. Senti, Maurizio, scusate, Balotelli non è solo, perché vi ricorderete quel tweet di Rooney durante Barcellona-Real Madrid dopo l'intervento di Pepe, no? Cioè, Twitter ha completamente cambiato le regole della comunicazione. Io lo adoro, mi piace la Matti, perché mi dà una misura anche empirica, mi dà un feedback delle persone, perché è chiaramente uno strumento eccezionale di informazione sul mondo. Però veramente, cioè, non esageriamo con la velocità di quest'epoca, perché su Twitter magari hai bevuto un bicchiere di vino o c'hai un momento così, dici una frase e viene è così, è un attimo. E non tutti, secondo me, possono poi avere gli strumenti culturali e la forza e le spalle larghe per poter successivamente chiarire in maniera compiuta il motivo di un tweet. Sì, anche se certe volte magari a conferenza stampa o i mezzi più tradizionali sarebbero preferibili. Maurizio, prima di salutarti voglio sentire un tuo pensiero, invece il pensierino delle 14:27 sull'Indo Inter, che è diventata realtà. Poi c'è qualcuno che dice che non è una notizia, secondo me lo è. È una notiziona, quasi da apertura di TG se oggi non ci fosse la manovrina o manovrona. No, è una notiziona che segnala una realtà, che è quella di un calcio che ha bisogno di soldi da altrove, all'esterno, perché non ne ha quasi più. È un calcio che deve, un po' come facciamo con Twitter, rapportarsi con una nuova realtà, ma è anche un calcio che non deve mai dimenticare che il cuore di tutto è la passione, il sangue e l'emotività di chi ci crede, e non solo in curva, anche dietro una scrivania. Non vorrei che questa fosse la prima tappa di un calcio eccessivamente virato verso i bilanci, un calcio raffreddato. Abbiamo bisogno di quei soldi, ma qualche volta è meglio averne meno ma averli belli caldi, io credo. Bravissimo, grande Mao, grazie. A voi, ciao. Pierluigi, tu, ciao. Stai lì, torniamo, però sentiamo la borsa. Comunicazione di servizio. Sì. Com'è la biglietta? Vai. Vai, basta. Borsa. Sì, soddisfatto, sì. I tempi sono stati lunghi, però insomma mi sembra che la cosa sia equilibrata, si è fatta bene. Vediamo anche per me tutto questo, che faccio finta che sia abbastanza regolare, filtrato, e tutto è chiaro che è sorprendente sotto il profilo del comportamento e delle responsabilità, ma e quindi vedrò un po' cosa mi sentirò dire. Tutti convocati. Dunque, una pattuglia nutrita di ascoltatori, caro Pierluigi Pardo. Vamos. Vamos, a Latina. Francesco, buongiorno. Buongiorno, intanto comincio con i complimenti alla trasmissione. Grazie. E soprattutto non me ne voglia il conduttore principale, ma Pierluigi Pardo, secondo me, è il miglior giornalista italiano. Non gliene voglio assolutamente. Si sente anche nel centro. Okay. E poi volevo parlare, riagganciandomi alla telefonata dell'ascoltatore precedente, che praticamente diciamo lodava la gestione Moratti essendo interista. Io sono tifoso juventino e al di là del fatto delle vittorie di cartone, delle varie cose che ha fatto l'Inter, la banda degli onesti, passaportopoli, farsopoli, sì, lo scandalo intercettazioni, le prescrizioni eccetera, anch'io ringrazio Massimo Moratti per tutti i momenti che ci ha fatto vivere a noi juventini. Ma lo dice ovviamente in modo ironico, no? Mi sembra di cogliere un filo di ironia. Sì, no? un sottile velo di ironia da chi è stato penalizzato dalla gestione Moratti, soprattutto per la stagione scorsa, tanti complimenti, e per i pianti di Mazzarri di quest'anno. In bocca al lupo all'Inter per questa stagione e per altre a venire. Guardi, le faccio rispondere dal suo idolo. Ma ci sta tutta la vita, e anzi espressa in modo sottile e intelligente, ma magari neanche tanto. Ricordo sempre 15 anni fa una battuta di Amato Antuono che disse che l'anno più bello per lui da milanista era stato l'anno in cui il Milan non era nelle coppe perché poteva concentrarsi unicamente su gufare, tutte le altre ha vissuto un anno meraviglioso. Ma sai, ma poi alla parte del gioco, al di là dell'ironia, l'Inter è tutto questo, ma non, io qui lo dico senza ironia, l'Inter è tutto questo e tutto questo sta nel mondo dell'Inter. Io credo anche che gli interisti siano orgogliosi di questo mondo Inter, di questa strana galassia, no? In cui stanno vittorie e sconfitte in entrambi i casi con toni molto melodrammatici, ma è così. Sì, assolutamente. Beh, credo che il tratto della follia è assolutamente, no, il famoso pazza Inter, amala, dell'inno, ma è un tratto tipico della storia di questo club, quindi cadute rovinose, imprese improvvise, assolutamente. Ma insomma, io credo che Moratti sia stato un grande presidente, perché ci ha messo i soldi, perché ci ha messo la faccia, perché ci ha messo passione, poi ha sbagliato delle cose sicuramente, altre cose gli sono venute bene, ma insomma, credo che la sintesi di questi due ascoltatori sia assolutamente perfetta, perché poi non è che vinci sempre nella vita. Ma io credo che ne vedremo ancora delle belle, perché sai, l'indonesiano sta in Indonesia, Massimo Moratti sta alla Saras. Io credo che ci possa essere conforto per tutti i nostri colleghi. E che se non lo lascia, magari c'è anche notizia. Certo. Se non lo lascia presidente, magari c'è anche notizia. Eccola, allo stadio non si può più sentire per ragione di copyright. Qua sì, bellissimo, l'indonesiano è il mio preferito. Questa canzone è la mia canzone calcistica preferita, ma è Pardo che si intende di musica. Renzo. Beh, è molto orecchiabile, devo dire che è una di quelle canzoni che se ti capita di fare, adesso non si sente più, quando mi capitava di fare l'Inter a San Siro prima della partita, poi è una di quelle canzoni che ti accompagna tutto il giorno. Devo dire che anche la Juve è un inno molto orecchiabile ultimamente. Storia di un grande amore. Sì, però questa io ti ho visto ballarla in discoteca, questa. No, no, delle... proprio, io ballo soltanto la techno in discoteca. Ah, già, anche quella, sì. Renzo Piacenza, buongiorno. Buongiorno. Mi sono convocato da solo per una cosa, per esprimere il mio giudizio sui Moratti. Io ho conosciuto Angelo Moratti negli anni 60 a Milano. E vi posso assicurare che era la persona più gentile e più affabile che esistesse. Allora, no, mi dispiace tantissimo che i Moratti abbandonino l'Inter, sono milanista, prometto. Sì. E devo rendere omaggio a questa famiglia, veramente. E lo dico proprio perché l'ho vissuta, non ho conosciuto i figli, ma ho conosciuto molto bene Angelo Moratti, vi posso assicurare che... Ma sì, sul fatto che siano delle persone assolutamente per bene, dei grandi signori, dei grandi protagonisti anche della vita economica italiana, beh, sono cose talmente scontate, ovvie da essere quasi pleonastiche, no? 5 campionati, una Champions League, una Coppa UEFA, un mondiale per club. E se mi permette una considerazione sul calcio italiano, voglio dire, con i sistemi attuali, con i sistemi di acquisto e vendita che ci sono adesso, e non avere più un faro, un uomo squadra come può essere stato Del Piero, come può essere stato tanti gli altri, secondo me ci si disinnamora di quello che è. Io personalmente le parlo perché... Ma no, siccome questo non, Renzo, questo non è necessariamente vero, anche se, anche se Moratti era l'ultima, paradossalmente l'ultima bandiera italiana nell'Inter, cioè, tutto il resto adesso viene globalizzato. Sì, lo dico da milanista. Ma no, ma lo diciamo da, insomma, da gente che fa questo mestiere tutti i giorni. Noi almeno, io e Pardo interpreto anche il suo pensiero. Perché ci dispiace? Perché è così, no? Perché siamo dei sentimentali, forse. Io sono un po' più vecchio di voi, lo sono da una vita. Noi ci associamo, insomma. Però dai, insomma, la vita va avanti, ragazzi. Ma anche perché insomma, Moratti l'ha dichiarato candidamente, dopo il triplete non ha avuto la forza economica l'Inter di riuscire a capitalizzare su quello straordinario trionfo. Sono cresciuti i costi, non sono aumentati i ricavi, qualche contratto probabilmente è stato fatto anche per gratitudine dopo quella grande impresa, quindi l'Inter, l'ha detto lo stesso presidente, insomma, ha bisogno di energie nuove, di energie fresche, credo sia una dimensione abbastanza comune del calcio italiano. La Roma ci ha già passata, altre società comunque sicuramente, se arrivasse un compratore o se arrivasse un socio in grado di mettere dei capitali, insomma, starebbero a sentirlo con la massima attenzione. Ma sicuro, il problema è che la realtà italiana è talmente complessa che gli investitori stranieri, insomma, prima di tuffarsi in questa palude, ci pensano mille volte. Possiamo anche estremizzare dicendo che l'Inter di Tohir, la data di nascita dell'Inter di Tohir è stata la notte di Madrid, perché lì è finita l'Inter del ciclo di Moratti. Poi tutto il resto sono stati enormi costi e scarsi risultati. Quando Mourinho andò via con la macchina del Real Madrid, quando Milito chiese il rinnovo del contratto in campo ancora prima di alzare la Coppa, eccetera eccetera eccetera, ecco, lì il ciclo era già finito. E questa è la conclusione post datata. Francesco Modena, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Volevo sottoporre due veloci riflessioni. Insomma, rapida, che credo che la sua uscita di scena, soprattutto se non ci saranno più i lunedì davanti all'ufficio della Ma ci saranno, Francesco, ci ho pensato subito anch'io, ci saranno, stia tranquillo. No, perché volevo dire che nel caso in cui non ci fossero più, sarebbe comunque una sottrazione di stile al calcio italiano. Da qualsiasi punto la si voglia vedere, insomma, tifosi o no, interisti o no, comunque a livello di immagine, di personalità e tutto, mi sembra che potrebbe mancare tanto a tutti, indipendentemente da come la si guardi. E poi volevo dirvi qualcosa su Balotelli, nel senso che stiamo parlando tutti tantissimo, vorrei magari che si ricordasse anche che a livello proprio di nazionale l'operazione simpatia PIL fatta da Prandelli, tutto questo nuovo ciclo che ha riportato anche spettatori, attenzione sul nazionale, deve tanto comunque anche al personaggio Balotelli, a mio giudizio. Quindi magari delle volte questo si tende un po' a sottovalutarlo, nel senso che questo ragazzo qui, insomma, ha tante responsabilità, delle volte fa qualche scivolata eccetera, però se il prodotto nazionale italiana è stato rivenduto così bene, viene venduto così bene adesso dagli europei del 2012 in avanti, lo si deve tanto anche a Balotelli. È l'uomo copertina, è l'uomo copertina, signori, è finito sulla copertina del Time e su quella di Sports Illustrated, non un altro, ma di cosa parliamo? Io credo che nessuno possa sottovalutare questo ruolo, che è un ruolo straordinario dal punto di vista mediatico. E attenzione, quando diciamo mediatico, perché poi ogni tanto dicono siete voi giornalisti, quando diciamo mediatico diciamo che poi alla fine se ne parla, la gente lo vuole sentire, è un fenomeno mondiale, e quindi da questo punto di vista Bene o nel male, anche perché io trovo sempre curioso che il giocatore paradossalmente più detestato in maniera trasversale d'Italia, cioè Mario Balotelli, lo si voglia leggere come simbolo di qualcosa. Però vabbè, Massimo è molto amato da alcuni e sarà detestato da altri. È un personaggio polarizzante, chiaramente, insomma, Avia Sanetti credo che sia lo stesso Del Piero, lo stesso Totti in questo momento, sono giocatori che hanno ormai un'immagine che è un'immagine universale. Poi certamente gli interisti ameranno più Zanetti, Del Piero i juventini e Totti più i romanisti, ma sono giocatori che non dividono. Ma non c'è niente di male, ognuno è com'è e ognuno rimane com'è, come ha detto oggi Prandelli, che poi sentiremo anche in questa intervista, l'abituale intervista della Rai prepartita, in cui ha detto non si può twittare in Brasile, non si potrà twittare, e Balotelli rimarrà questo, non è, c'è molto da fare. Strade, poi Massimo. La famiglia Moratti, la famiglia, cioè l'Inter, ma come Juventus Agnelli, fa un po' impressione, sinceramente viene anche un po' di magone, no? Di sapere che comunque una società gloriosa, no? come l'Inter stia passando in mani straniere. Tutti convocati. Numeri della presidenza moratiana, prima vi ho ricordato i 16 titoli Massimo Moratti in 18 anni di presidenza, ma ci sono anche i 19 allenatori in 18 anni da Ottavio Bianchi, che fu il primo, a Walter Mazzarri, che è ovviamente quello attuale. Massimo? Sì, pronto? Non è Moratti? No, solo Massimo. No, un attimo presidente. Volevo dire una cosa sola. La butto di piano, ringrazio soprattutto Moratti per lo scudetto di cartone e la Juve in B, così per, sì. Per partire. La tocco piano, sì. La tocco piano. No, nulla da dire su Moratti. Su Balotelli mi sembra un po' il discorso che, avendo dei bimbi piccoli, è un po' un discorso un po' troppo alto, però deve essere sempre, cioè deve essere un esempio, che non lo è, nel senso che viene guardato, viene ammirato da certe persone, soprattutto piccoli, e quando fa quelle sparate è un po' sconcertante. E mi sembra che poi alcuni giornalisti vogliono proteggere un prodotto. Questo prodotto non è da proteggere, nel senso che se fa degli errori bisogna dirlo, bisogna... Guardi, io Massimo, sinceramente io non proteggo, non ho voglia di proteggere prodotti, ma perché non è mia intenzione, non lo faccio, ma sinceramente ho un po' perso anche la voglia di parlarne, perché mi sto stufando, come molti miei ascoltatori che hanno in gran parte ragione. 800240024, avevamo in linea l'unico uomo che sa tutto della trattativa tra Moratti e Toir, ne sa più di Moratti Marco Bellinazzo da Sole 24 Ore, ma in galleria. Prende? No, non prende. Allora, Pier, qual è stato secondo te il momento più esaltante della presidenza Moratti? Non vale la Champions League? Come si fa a dire che non vale la Champions League? No, perché sennò è troppo facile. Dire la Coppa UEFA. La Coppa UEFA ottenuta in un periodo... Quella di Ronaldo? Del 98, se non sbaglio. Ottenuta in un momento in cui l'Inter chiaramente era un outsider, non era la favorita per il campionato. Quella fu un'esperienza comunque fantastica della presidenza Moratti. E poi insomma l'Inter è stata una lunga serie di stagioni a caccia di se stessa, e poi una clamorosa rinascita. Il dibattito sull'Inter è sempre lo stesso. Ma il dibattito sull'Inter resterà sempre lo stesso, ed esatto. È bene che Moir lo impari. Gli interisti dicono che senza quella vicenda lì l'Inter avrebbe continuato a non vincere. Gli interisti ti dicono che senza quelle cose lì, sì, avrebbero vinto prima, ma questo è anche questo, non se ne uscirà mai, insomma, anche perché non c'è la prova. Quella vicenda lì c'è stata, l'Inter poi ha vinto, e poi il resto è cronaca o leggenda. Eccolo qui Marco Bellinazzo. Ciao Marco. Ciao Carlo. Allora, ascolta, raccontaci, di questa vicenda l'hai saputa prima di Moratti, dicevo, cioè dell'interesse di Toir, penso ti sia arrivata notizia prima ancora che Massimo Moratti. Adesso che è finita e che l'hai raccontata tutta, che cosa ci resta? Amarezza anche in questo caso? No, io credo grande speranza su una diversa modalità di gestione del club, che dei club in generale, insomma, mi riferisco non soltanto all'Inter, naturalmente. Penso che ci saranno tanti cambiamenti e potranno essere positivi non solo per la società nerazzurra, ma per l'intero calcio italiano, insomma, purché non si abbiano aspettative sul modello Paris Saint-Germain o Manchester City, voglio dire. Sì, il modello Paperone che arriva con le tasche piene di denari e ne spende una valanga. Ti voglio chiedere due domande, Marco. Allora, confermata la quota del 70% per quanto riguarda la cessione, primo, secondo un'impressione, Moratti rimarrà presidente secondo te? Allora, la quota dovrebbe essere quella, anche se c'è stato il tentativo di un'accelerazione nelle ultimissime ore, cioè Toir e la Cordata Indonesiana volevano il 100%, e il rallentamento degli ultimi giorni si spiega anche in questo modo, insomma, questa è una notizia che ho appreso poco. Di nuovo entrato in galleria. Hai sentito? Insomma, è l'assemblea di fine ottobre, perché ci sono da decidere delle cooperative. Se Moratti avrà. No, vai, vieni, vai, vieni, vieni, Rinazzo. Marco, se ci sei, batti un colpo e dimmi solo se secondo te Moratti resterà presidente. Non batte colpi. Silenzio assenso. No, alla galleria. Rimaniamo con questo. Beh, però, 100% voleva togliere. Che ingordo, eh? Moratti ha fatto bene a non scucire quel 30% che gli permette Tra l'altro, questa indiscrezione che ci ha Brinazzo è in qualche modo contraria a quello che invece era circolato nei giorni scorsi e che in qualche modo sta circolando, cioè l'idea che Moratti possa rimanere presidente. Per carità, non ci deve essere sempre per forza un'identità assoluta fra la percentuale di quota di mercato che hai e i ruoli, cioè tu puoi anche decidere che Moratti, anche se gli lasci una piccola parte, però ti serve come presidente. Però è chiaro che insomma, se Toir ha aumentato le pretese, ha provato ad aumentare la sua quota all'interno dell'Inter, probabilmente perché vuole avere un controllo molto diretto, sì. Però finché non esce dalla galleria lo sapremo solo vivendo nei prossimi giorni. Francesco Livorno, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Sono in lutto perché Morale. Addirittura in lutto, ma su col morale, ragazzi, ripeto. Ma io sono sul morale avanti. Perché telefonavo per scherzare con quel tifoso juventino che ha chiamato. Sì. Sì, no, va bene, lo faccia. Gli vorrei rispondere con una rima baciata che il popolo interista la Serie B non l'ha mai vista, gratis o a pagamento, non ci siamo mai andati, contiamo di andarci mai. Grazie, arrivederci. A lei Francesco, rima baciata. Lo so. Beh, insomma, questo abbiamo detto. Ma si fa parte del gioco. Fa parte del gioco, da una parte e dall'altra. Sì. Adesso però gli interisti che sono così tristi per l'addio alla presidenza di Massimo Moratti aspettano Toir, almeno un regalino da Toir. Se questo arriva e fa il taccagno, si arrabbiano, eh. Sì, io penso che sì, anche se i segnali e le esperienze di Toir nelle varie squadre che ha avuto nei campionati insomma vanno in un'altra direzione, insomma non è un presidente, non sembrerebbe essere un presidente alla Abramovic, tanto per capirci, ma forse questo alla fine è anche sano, nel senso che poi... Lo è certamente, però se viene qui con l'idea di far subito uno stadio è meglio che se la levi dalla testa. È abbastanza complicato, però insomma io credo che dai primi exit poll c'è questo sospetto, che si tratterà di una proprietà importante, di una proprietà forte, con le spalle larghe, ma che non difficilmente, almeno in questa prima fase, farà degli investimenti clamorosamente importanti e smodati, un po' come nella tradizione del Paris Saint-Germain, del Manchester City o del Chelsea di Abramovic. Quindi staremo a vedere, ovviamente, staremo a vedere. Ci sentiamo domani, magari ci vediamo. Grazie Pier. Sì, domani ci vediamo, ciao. Grazie per Luigi Pardo, ci fermiamo invece noi per ascoltare Giornale Radio, poi torniamo. 800 24 00 24, resta il vostro numero, siete convocati sempre e su ogni argomento, non abbiamo limiti. A dopo. Tutti convocati. Io vi riconvoco. 800 24 00 24, numero verde. Finalmente questa sera giochiamo questa imperdibile partita con l'Armenia, la nostra nazionale di calcio lo farà. Armenia non è esattamente un avversario probante, così come non lo è stata questa settimana azzurra, ed è questo che io contesto su tali interruzioni della stagione, almeno venissero impiegate da Prandelli per costruire qualcosa. Queste due partite non permetteranno a Prandelli di avere, secondo me, alcun tipo di indicazione. A proposito di Prandelli, voglio farvi sentire, poi evitiamo discorso, semplicemente per la cronaca, voglio farvi sentire due dichiarazioni di oggi del CT. La prima è sul personaggio del momento. Per quanto ci riguarda, non ha mai creato grandissimi problemi. Ovviamente ha il suo modo di fare, il suo modo di pensare, che a volte con il dialogo, a volte con la discussione, capisce che ha fatto un ragionamento sbagliato e quindi ritorna sui suoi passi. E questo, capisce, però ogni tanto scivola, continua a scivolare. Sì, ma questo fa parte della crisi di tutti noi, cioè tutti. Non cambierà mai, mettiamoci in testa che non cambierà mai. Noi dobbiamo prendere il meglio di Mario e magari a piccoli passi può anche magari sorprendere tante persone. lasciamo stare questo discorso, allarghiamo quello che invece è interessante sull'uso dei social network ai mondiali. Ebbene, la nazionale cercherà di contingentare l'impiego di Twitter, non so se di Facebook, o comunque dei social network durante la spedizione in Brasile. Argomento non facile, perché è difficile vietare a qualcuno di esprimere il proprio pensiero. Prandelli. Ma sì, stiamo pensando sicuramente tanto. Nel periodo del mondiale avremo un regolamento interno abbastanza rigido. Vabbè, torniamo a vedere Gianluigi Verona, lo ascoltiamo subito invece. Buongiorno. Buongiorno a lei e grazie per la convocazione. Grazie, lei ha risposto. Dica. Senta, io sono un vecchio interista, 57 anni dell'era di Mazzola, Jair e tutto quanto. Vecchio non direi. Sì, che io tanto ho amato quanto ho criticato Moratti in tutti questi anni. E adesso mi manca da tutti e due i punti di vista, insomma. Di già. Non ha ancora così passato le consegne, già le manca. Sì, perché io penso che intanto temo che dopo questa situazione possano nascerne altre per altri club importanti in Italia. E mi pare che un presidente così, come quello che hanno adesso gli amici juventini, come quello che hanno gli amici di Napoli, ecco, faccia parte comunque della squadra. Sì, faccia parte anche della tradizione italiana, conosca bene la dialettica italiana, non solo dal punto di vista delle parole, intendo la dialettica in senso molto lato. Sai, io non credo, posso dire... Gianluigi, però posso dire che non credo di... Ci sarà poi un'invasione di presidenti stranieri in Italia, per molte ragioni. Una sta proprio nella particolarità della dialettica italiana. Se uno, Toir compreso, e gli americani di Roma l'hanno capito perfettamente, immagina di venire qui e da un giorno all'altro progettare e costruire un nuovo stadio o gestire il calcio secondo logiche un po' più evolute, ebbene poi fai i conti con la dialettica di qui sopra, sempre intesa in senso molto lato, E ripeto, io fossi un investitore straniero ci penserei 100 volte prima di mettere i soldi nel calcio italiano, e poi dopo che ci ho pensato 100 volte eviterei. Però benvengano i capitali stranieri, benvengano, basta che non si facciano illusioni, e questo non è un paese né per giovani né per investitori sprovveduti, diciamo così. Ho usato un giro di parole molto largo, oggi va in questo modo. Pino, Bari, buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire un paio di cose. Una riguarda appunto ringraziare Moratti per quello che ha fatto per la nostra Inter. Io sono tifosissimo interista dalla nascita, e al tempo stesso augurare a Toir di inserirsi nel nostro mondo, nel mondo del calcio. Sperando soprattutto di migliorare la dirigenza, perché forse uno dei problemi che ha vissuto Moratti nell'Inter in questi anni è stata la sua dirigenza. Solo quando ha fatto ordine la dirigenza, solo nell'epoca di Mourinho, secondo il mio parere, le cose sono cambiate. Ma poi sono ripiombate nel caos. Ha fatto ordine la dirigenza, è arrivato Mourinho e ha detto qui comando io, e nessuno si azzardi a fare il contrario di quello che dico. Quindi rimettere ordine alla dirigenza è stato semplicemente questo. Già circola la voce di un possibile ritorno di Orjali all'Inter, ma mi sembra siano per il momento dei rumors. Invece saluto e ringrazio Luca Chiabotti, inviato della Gazzetta dello Sport, che non so se sia interista, non gliel'ho mai chiesto. Ciao. Buongiorno a tutti. Sei interista? Milanista. Sei milanista, quindi sì. E quindi l'arrivo di Twitter non te ne importa nulla. Senti, ma più o meno. Invece c'è già uno psicodramma, uno psicodramma a Milano. Sì. Milano, dicevo l'altro giorno, ne parlavo con Pianigiani, e poi ti faccio sentire anche cosa ha detto Pianigiani su un altro caso interessante, che non sarà Balotelli in questo caso, ma è Hackett, e anche lì la dialettica è curiosa. Comunque, sai, è una notizia, no? Milano gioca la prima, perde. Io non ricordo una squadra che avesse così tanta pressione addosso, e ho notato anche una certa reazione forte da parte di Prodi, che ha detto Gerrals non mi piace, playmaker, prima giornata, sconfitte, playmaker impallinato dopo i primi 40 minuti, non male. No, non male, anche perché di solito c'è sempre un periodo, un limbo nel quale i commenti devono essere un pochino più sfumati. Sì. Il problema è che in questo caso è... stanno un po' rimuginando da un po' di tempo questa storia che questo giocatore non è esattamente quello che si aspettavano, e quindi probabilmente è uscito subito questo commento. D'altronde era previsto un po', perché questo sai, nelle famose non ci sono più le mezze stagioni, sì, non ci sono più le cose di una volta, non ci sono più neanche i registi di una volta, per cui le squadre sono portate più o meno ad arrangiarsi con giocatori in un ruolo che probabilmente non gli appartiene così tanto, e quindi tante volte gli impatti sono più duri di quello che... Comunque Luca, al di là del singolo giocatore è l'intera Milano ad avere sulle spalle una pressione enorme. Immaginati cosa potrebbe succedere, mettiamone, perdessero 3 di fila, ma apriti cielo, Milano non ha tempo, Banchi non ha tempo, e lo sappiamo un po' tutti perché è un segreto di Pulcinella. Io credo che se Milano non vincesse questo scudetto sarebbe il più grande fallimento forse della storia della pallacanestro italiana, viste le premesse. Viste le premesse, ma anche però visto come si sono sviluppati nell'estate le cose, devo dire che non è da sola, come tutti abbiamo sempre commentato, no? Però quest'anno gioca da sola Milano gioca da... non è proprio così in realtà, però sono d'accordo, c'è una pressione enorme. E però la cosa strana è che la pressione a dover vincere per una squadra che non ha mai vinto negli ultimi 16-17 anni è quasi paradossale, perché la pressione ce l'ha una squadra che ottiene dei grandi risultati, questi non li hanno ottenuti da chissà quando. È vero che li stanno inseguendo, è vero che hanno investito, è vero che hanno trovato sulla loro strada forse la miglior squadra di chissà da quanto tempo, però sì, c'è una grande pressione, ma non è giustificata, tu dici. Non è così giustificata, nel senso che in realtà Milano è una squadra che deve ancora imparare a vincere, e quindi si va un po' magari a tentativi Ma sono un po' troppi anni che si va a tentativi, certo, da quelle parti, quindi credo, certo, che la scorta di tentativi sia finita. Voglio un tuo parere invece sulla questione A, che ti faccio sentire però prima cosa ha detto Pianigiani sul caso di questo giocatore che ha innescato una polemica con toni robusti, ve lo ricordo, col presidente federale Petrucci, a colpi di signor nessuno e mica signor nessuno. Petrucci ha rimproverato per aver rifiutato la convocazione in maglia azzurra con il pretesto o comunque con il motivo di un infortunio che non gli ha impedito di fare la preparazione con Siena. Hackett ha risposto 3 titoli in 3 mesi, questo è per il presidente federale. Insomma, si va avanti da un po'. È intervenuto Pianigiani domenica, questi microfoni, sentiamoci te. Come ragionamento generale assoluto, la nazionale è tutto, nel senso che non puoi... quando hai la possibilità di vestire questa maglia, sei l'esempio per le nuove generazioni, per i ragazzini, per quello che rappresenta, che c'è dietro, che abbiamo visto, di passione e tutto quanto, non puoi mai tirarti indietro, ed è una cosa che ti devi proprio sentire cuscita addosso. Quindi su quello credo che siamo d'accordo tutti quanti, e che poi i giocatori, io dico la verità, quelli che sono stati in queste estati, quando ci sono stati, e Degna c'è stato l'estate precedente, l'ho visto dare tutto, credo che poi dovremo sempre di più ottimizzare la gestione dei giocatori per 12 mesi. Come la mettiamo, Luca? La mettiamo che è stato un botta risposta interessante, nel quale forse stavolta il presidente federale ha non ha lasciato cadere la questione. E ha fatto bene per me. Sì, cioè, ma sono due cose forse un po' differenti. Da una parte il presidente diceva e dice che i grandi nomi, i grandi campioni passano attraverso la nazionale, ed è vero, anche perché ormai i nostri club non sono più quelli che vincono le coppe dei campioni, quindi sei per forza, sì, legato al grande evento azzurro per ritenerti un giocatore arrivato. visti gli esempi anche che magari di stelle NBA che non hanno mai voluto abbandonare il loro paese come Gasol, Parker o Nowitzki. Dall'altro c'è il fatto che, allora diciamola tutta, alla base di tutto questo c'è una valutazione di un infortunio che per la federazione poteva essere gestito durante la preparazione e per il giocatore non, che il giocatore invece non si sentiva di farlo e probabilmente non è stato messo di fronte a una cura che a lui soddisfacesse. Dov'è il punto di diciamo di rottura? Di rottura e soprattutto il fatto di voler vestire la maglia della nazionale e questo tipo di sacrificio su una carriera, dov'è, chi ha ragione, da che parte si va? Io credo che in questo caso ci sono state tanto non detto, però resta il fatto che l'ho detto anche l'altro giorno a Pianigiani, curioso vedere questi che fanno gli europei e quell'altro che fa le amichevoli con la sua maglia. Luca, io ti ringrazio, alla prossima, ti abbraccio, arrivederci. Grazie a Luca Chiabotti, Gazzetta dello Sport, Giorgio Locoptore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, ci sentiamo domani alle 2, ciao.